Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo ritornati noi di 451 Frammenti Sonori, stasera d'altronde mantenendo la linea di questa ultima stagione ci sarò solo io, e ormai è diventata diciamo un'eccezione la presenza di entrambe per vari problemi, anche questa volta ci sarò io e la prossima quasi sicuramente ci sarà invece solo il buon Max Macchia. 451 Frammenti Sonori dunque stasera rientra in conduzione singola e stasera ci riagganciamo in parte a una puntata speciale che abbiamo realizzato e mandato in onda circa un mese fa insieme al grande Jerry di Altri Suoni, insieme anche a DJ Tetro, un DJ che ha avuto una certa importanza nel giro della wave non solo degli anni fine 70, inizio 80 qua a Bologna e dintorni, puntata speciale dedicata alla wave. Stasera ci riagganciamo ma affrontando il tema più specifico della new wave, con la diramazione musicale eclettica, pazza, assolutamente fuori dalle categorie, che emerse fondamentalmente a New York tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, che ha caratterizzato e anche condizionato gran parte delle musiche che poi sono venute negli anni a seguire, anche una certa elettronica, una certa sperimentazione che ha attraversato gli anni 90 e gli anni 0. Una new wave che attraverserà soprattutto gli Stati Uniti d'America e New York in particolare, ma anche troveremo delle formazioni che si sono mosse in Inghilterra su quell'ondata, con delle caratterizzazioni più legate al post-punk, essendo la terra, quella inglese, feconda del movimento punk degli anni 70. E iniziamo con una formazione importantissima della new wave newyorkese, una formazione che ha visto la presenza e tra i fondatori di questo gruppo il grande Glen Branca, e si tratta di Theoretical Girls, formazione nata appunto nel 1977, durata molto poco, per qualche anno. Poi i vari componenti della formazione, in particolar modo Glen Branca, hanno portato avanti le loro produzioni individuali, anche la costruzione di altri progetti paralleli. È una formazione però che è caratterizzata dalle prime fusioni e contaminazioni fra punk, post-punk, jazz, funk e anche certi rimandi legati a un certo disco funk più elaborato e più sperimentale, ma con quella cattiveria, con quella crudezza tipica della new wave che poi si sviluppò negli anni a seguire. Il disco in questione è il disco di esordio, che è un 7 pollici del 1978, You Got Me, che è un brano oltretutto che dà il titolo a questo 7 pollici, che ha avuto un certo successo almeno nell'ambito ristretto della new wave, e che abbiamo voluto utilizzare come apertura di questa serata. Dunque, Frammenti di new wave sarà la nostra puntata di stasera. Ci saranno ovviamente dei frammenti, dei progetti, delle formazioni e dei brani che non sono assolutamente esaustivi di un movimento estremamente ricco di formazioni, di intrecci e di collettivi musicali che si sono sviluppati soprattutto tra il 1977 e il 1982. Ci andiamo a sentire comunque un brano a questo punto di You Got Me, il disco 7 pollici del 1978, Theoretical Girls, e in particolare il grande Glen Branca. Dunque partiamo, Frammenti di new wave, 451 Frammenti Sonori, Theoretical Girls. Siamo ritornati in diretta dopo questo straordinario attacco di adrenalina e anche di rabbia espressa da questa formazione cappeggiata dal grande Glenn Branca, Theoretical Girls, You Got Me 1978, il disco 7 pollici che apre la serata Frammenti di No Wave. Nel frattempo utilizziamo anche lo spazio per la prossima presentazione, anche per ricordare a coloro che volessero riascoltare le trasmissioni di 451 Frammenti Sonori, che potete andare a riascoltare o anche a scaricare le trasmissioni in podcast sul nostro no blog, cioè 451frammentisonori.noblogs.org, e anche avere altre informazioni o notizie soprattutto legate alle scalette, ai brani e ai dischi che abbiamo selezionato e inserito nelle varie puntate di trasmissione. E ora ci spostiamo ancora all'interno della New Wave, andiamo a trovare un'altra formazione che all'interno vedeva dei personaggi che hanno poi caratterizzato la scena musicale anche sperimentale, ma non solo, anche più legata al pop degli anni 80. Parliamo di una formazione non particolarmente conosciuta, ma anche questa piuttosto importante nella scena newyorkese della New Wave, Dinosaur L, formazione nata alla fine degli anni 70, tra il 78 e il 1979, costruita dal grande Arthur Russell, che poi ha portato avanti tanti e tantissimi e poliedrici progetti musicali tra il 1980 fino ad oggi, e poi il grande personaggio che suonava all'epoca nel Dinosaur L alla chitarra, cioè David Byrne, che insomma è stato uno dei fondatori di una formazione, di una band importantissima e conosciutissima con i Talking Heads. Oltre a loro, al basso Wilbur Bascom Jr. e alla batteria Alan Schwarzberger, un altro musicista che poi ha trafficato nel giro wave post-punk tra gli anni 70 e gli anni 80. Formazione appunto seminale nell'ambito della new wave newyorkese, ma non solo, anche per tutte le sperimentazioni tra rock alternativo, rock pop degli anni 80, successive appunto a questo periodo storico. Abbiamo scelto dei Dinosaur L, il disco più importante, 24, cioè in realtà definiamolo in inglese che siamo più corretti, 24 Music, uscito nell'81, ma le registrazioni sono del 1978 e del 1979. Ci andiamo ad ascoltare un brano di questo splendido lavoro, che è sicuramente da riascoltare, anche perché continua a essere estremamente attuale dal punto di vista compositivo, sonoro e anche concettuale. Dinosaur L, 24 Music. E siamo rientrati in diretta dopo questo splendido lavoro di Dinosaur L, ricordiamo ancora 2424 Music, registrazioni dal 78-79, ma l'uscita dell'album del 1981. Ovviamente anche questo progetto ha avuto vita breve, diciamo che ha chiuso i battenti intorno al 1983, un po' come è successo a quasi tutte le formazioni che metteremo in campo stasera. La caratterizzazione di queste formazioni, appunto la nascita del dal 78, 79, 77 in alcuni casi, e la chiusura dei progetti tendenzialmente tra l'83 e l'84, anche perché questo è stato il periodo proprio della New Wave, e poi è successo un po' di tutto dopo l'anno fatidico intorno all'84, dove tutto è cambiato, è arrivato ben altra cosa, gli anni 80, la seconda parte degli anni 80, dove tutto si è confuso e si è reso patinato, platinato e commercializzato al massimo. Si è perso ovviamente quella vena abbastanza antiformalistica, fuori dai canoni commerciali, che aveva caratterizzato il periodo post-punk e anche la scena post-disco degli anni 70, per creare una fusione di vari linguaggi. E qua ad esempio nella formazione dei Dinosaur L si notano in maniera piuttosto chiara, c'è veramente dal rock al post-punk agli elementi più funky, in alcuni casi alcune coloriture jazz che emergono in maniera piuttosto netta, soprattutto nel brano che abbiamo ascoltato poc'anzi. Dopo Dinosaur L stiamo seguendo un ordine chiaramente anche cronologico. Abbiamo aperto con Theoretical Girls, il progetto di Glenn Brancard del 1978, siamo passati a Dinosaur L 78-79 le composizioni, ora ci apprestiamo a affrontare il 1980 con una formazione invece in questo caso non newyorkese come le due precedenti, ma una formazione che nasce proprio come progetto post-punk in Inghilterra, in particolar modo a Manchester. Nato nel 1978, i Ludus entrano più dentro la categoria post-punk, anche se nel disco che andremo ad ascoltare tra poco, che si intitola The Visit, uscito nel 1980, l'influenza new wave americana emerge attraverso anche questa formazione post-punk, che ha avuto una vita appunto tra il 1978 e il 1982. Formazione nata dal chitarrista, rumorista e punk Arthur Kedmon, insieme a il batterista Philip Tolman e il bassista Willie Trotter, e con la partecipazione in alcuni album anche della voce di Linda Mulvey. Formazione sicuramente molto interessante nella scena inglese, proprio per le forti contaminazioni e legami che ha avuto con la scena newyorkese della new wave, anche se si sente indubbiamente il linguaggio e il suono molto più vicino al punk, più legato fondamentalmente alla scena inglese più che americana. Andiamoci dunque a sentire anche i Ludus con l'album The Visit 1980. Thank you. Questo brano tratto da questo ottimo album The Visit 1980 dei Ludus, un brano estremamente ricco di influenze e di stili, ma appunto caratterizzato anche da questa genialità e questa impossibilità di prevedere quello che i musicisti avrebbero fatto da lì a pochi secondi del brano, che si trasforma in continuazione in un'ottica assolutamente antiformalistica dal punto di vista musicale. Formazione inglese Ludus è anche questa prossima formazione che andremo adesso ad ascoltare, anche questa formazione nata in Inghilterra nel 1977, anche questa formazione esce dal punk, fa parte di tutto quell'ambito post-punk tra il 77 e il 79. Anche questa formazione, ripeto ancora, ha influenze molto forti nell'ambito new wave, con coloriture musicali piuttosto chiare legate appunto alla scena newyorkese, rimasticate e rielaborate in stile in salsa inglese. E si tratta di The Lines, appunto nata nel 1977 e avuto vita fino al 1983. L'album è che andremo a ascoltare Therapy, uscito nel 1981, dunque continuiamo, dunque dopo l'80 troviamo il 1981, formazione caratterizzata da musicisti che sono anche cambiati nel corso degli anni, ma che vedono come elementi fissi il vocalista e il cantante e il chitarrista Rico Conning e anche un personaggio che comunque ritroveremo anche in altri progetti paralleli e successivi nell'ambito Wave, e cioè Floodbank. E formazione appunto che ha avuto negli 6 anni di vita un cambiamento continuo di elementi, proprio anche per la caratteristica di questo progetto, che era un progetto aperto che manteneva fondamentalmente solo i due musicisti che poc'anzi vi ho elencato. Andiamoci dunque a sentire anche questi inglesi da The Lines, l'album è Therapy 1981. Thank you. Splendido anche questo brano che abbiamo voluto mixare con la formazione inglese di The Lions. Siamo ritornati a New York con una delle formazioni più importanti della scena new wave newyorkese. Parliamo di Bash Tetras, formazione assolutamente esplosiva del periodo post-punk e new wave newyorkese, formazione che ha sicuramente segnato, insieme alle più importanti formazioni new wave come Conk, Maximum Joy e anche Au Pairs, uno appunto degli elementi cardini di questo periodo storico assolutamente fecondo, esplosivo e innovativo della scena newyorkese. L'album in questione è uno degli EP più importanti, uscito nell'81, anche questo come l'album precedente Therapy di The Lions. Si tratta di Rituals, andatevelo a pescare perché è un EP assolutamente importante e innovativo. Da Bash Tetras chiudiamo, diciamo, la prima parte della trasmissione con un'altra delle formazioni che vi ho elencato poc'anzi, una delle formazioni cardine della scena no wave americana, Maximum Joy. Il disco in questione è considerato probabilmente il disco anche di chiusura, ma anche uno dei dischi più importanti di questa formazione, Station MXJY del 1982, continuando il nostro percorso storico. Il disco, ricordiamo, è un disco quasi di chiusura dell'epopea, possiamo definirla così, dei Maximum Joy, che è partita nel 1979 e ha chiuso i battenti nel 1983. Formazione che è stata una formazione parallela dell'altra formazione cardine degli anni 80, ma legata più alla scena industriale, ma si sentiranno degli influssi industriali sia in questo disco ma anche nel precedente Bash Tetras e in altri dischi che poi troveremo in altre formazioni della seconda parte di questa puntata di Frammenti di No Wave. Scena industriale caratterizzata da The Pop Group, che avevano praticamente gli stessi elementi di questa formazione parallela dei Maximum Joy, dunque formazione cardine, ricordiamo appunto i personaggi più importanti di pop group come John Waddington, Janine Rayford e Tony Wolfert, oltre a Kev Evans, musicisti appunto presenti con le varie caratteristiche strumentali, dalle voci al clarinetto, al violino, al basso elettrico, al piano, ai sax, alla tromba e ai flauti. Formazione estremamente ricca di influenze jazz, funk e anche ovviamente punk e rock, che poi troveranno uno sbocco più legato all'industriale, ma un'industriale molto eclettica e molto nera tra virgolette come flusso musicale, caratterizzata dall'esperienza degli anni 80 dei pop group. Andiamoci dunque a ascoltare questo disco, Station MXJY 1982, di chiusura di questa prima parte di trasmissione con i Maximum Joy, e poi ci ritroveremo dopo il GR di Radio Popolare Network. Buon ascolto, direi. Thank you. barba di...